Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ci dicono gli antropologi e gli evoluzionisti, gli studiosi di evoluzionismo, che la caratteristica principale che distingue la nostra specie da tutte le altre specie animali è che noi cuciniamo quello che mangiamo. Benvenuti e benvenute a questa edizione speciale di Möbius dedicata, e beh, insomma, qui se oltre a cucinare ci mettiamo anche a fare cucina scientifica, vuol dire che vogliamo proprio prendere le distanze. Qui in studio con me Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico e buon anno a tutti. E buon anno a tutti, ovviamente. Maurizio Melis. Ciao Federico, ciao Chiara, buon anno agli ascoltatori. Tutta la nostra redazione vi dà buon anno. Paolo Arebusco che è a Boston e Barbara Gallavotti purtroppo che è a Roma. Non possono essere con noi. Va bene. Allora, Chiara e Maurizio, voi avete seguito per Möbius, anche per il nostro sito, tutte queste vicende che riguardano la cucina scientifica, ma il nostro ospite ovviamente necessario è il professor Davide Cassi. Fisico buongustaio, buon anno professore. Buon anno, auguri a tutti. Non poteva mancare, devo dire, il professore per questa puntata speciale sulla cucina scientifica. Che però all'inizio noi dobbiamo chiarire. Cioè, professor Cassi, noi abbiamo fatto un po' di puntate nel Möbius che va in onda il sabato e la domenica, ma qui può esserci benissimo tanta gente che non ha mai sentito che cos'è questa cucina scientifica. Proviamo rapidamente a dargli una definizione. Allora, chiamiamo molto semplicemente cucina scientifica una disciplina scientifica che si occupa di cercare nuove tecniche e nuove preparazioni di cucina, ovviamente, che poi mette a disposizione dei cuochi perché li possano interpretare secondo la loro arte, creando nuovi piatti. Ecco, usiamo questo termine al posto del vecchio cucina molecolare, perché a cucina molecolare sono stati collegati dei significati molto diversi da quelli che noi intendevamo all'inizio. Molti pensano che la cucina molecolare sia quella fatta con le sostanze chimiche di origine industriale. In realtà, come avrete visto, in molte delle nostre preparazioni utilizziamo ingredienti normalissimi. Quindi poniamo subito questa differenza: la scienza è come sempre neutra, inventa tecniche e poi sta a chi le utilizza a scegliere gli ingredienti giusti. Ecco, mi sembra che dietro comunque anche un po' di polemiche, che adesso non vogliamo certamente oggi a Capodanno tirare fuori, ci sia anche un'idea della cucina in realtà molto conservativa, come qualcosa di cristallizzato che dura nei secoli e che in realtà non corrisponde al vero. In realtà è fatta di rivoluzioni proprio gastronomiche, vero professore? Infatti, la cucina è una continua rivoluzione, basta guardarsi un po' indietro nella storia. Pensate che il cioccolato in tavoletta nasce nella seconda metà dell'Ottocento, per darvi un'idea. Il pomodoro entra nell'alimentazione italiana tra fine Settecento e primi dell'Ottocento. Se guardiamo quello che mangiavano gli antichi romani, potremmo restare inorriditi con queste salse a base di pesce putrefatto, le cervella utilizzate come dolcificante e i ghiri che venivano allevati per essere mangiati come una leccornia. Quindi ci sono sempre state delle grandi rivoluzioni gastronomiche. Adesso stiamo assistendo a nuovi cambiamenti, ma lungi da noi pensare che la tradizione sia qualcosa di statico. Avrete notato tante volte che già nel passaggio di una ricetta da una generazione all'altra alcune modifiche vengono introdotte in modo molto ovvio. Insomma, la figlia fa la torta in un modo leggermente diverso da quello della madre perché crede di farla meglio. C'è un'idea di progresso che deve essere sempre presente nelle attività umane. Ecco, questa idea di progresso viene poi acquisita anche dai grandi chef internazionali che utilizzano appunto la cucina scientifica nelle loro cucine di fama mondiale. Noi in questa giornata speciale abbiamo un ospite speciale. È lo chef Carlo Cracco. Buongiorno e buon anno, chef. Buongiorno e grazie e buon anno anche a voi. Ecco, credo che non ci siano bisogno di presentazioni. Chef da 2 stelle Michelin, titolare del ristorante Cracco Peck di Milano. Chef, dunque anche lei ha adottato la cucina scientifica. Lei è inventore addirittura di una ricetta che noi abbiamo fatto anche un po' nostra nelle nostre video ricette del nostro blog. L'uovo marinato. Ma non è che noi abbiamo adottato, non siamo così, diciamo, orfani. Diciamo che il tutto nasce, come diceva il professor Cassi, da un'esigenza, no? Che è quella di cercare di portare, far evolvere la cucina, che è una macchina complessa, perché comunque è un carrozzone, no? Perché una cucina è difficile da far evolvere tante volte si evolve senza che nessuno se ne accorga, e l'abbiamo visto ad esempio negli anni 80 quando c'era la cucina con la panna, no? Che la panna sembrava che fosse un elemento quasi normale. La, no? Pannacea la potremmo chiamare. Sì, eppure tutti usavano la panna e tutti erano contenti, no? Ed era un segno di benessere, di ricchezza o di borghesia, non so come definirlo, che comunque era da tutti accettato, e nessuno si era posto la domanda o la questione da dove arrivasse, no? questo benessere o questa voglia di panna, no? Poi dopo un po' alla volta è cambiato ed siamo ritornati forse all'originale, no? A una cultura dell'olio che è molto più nostra e dove la panna ormai è quasi sparita, no? Però ecco, non bisogna mai prendere per assolutistiche tutte queste teorie, tutte queste pratiche. Bisogna sempre cercare di ragionarci sopra e di viverle, di affrontarle, conoscerle, perché poi l'ignoranza è la cosa più brutta che esista al mondo e che fa poi tanti danni. E per cui noi l'abbiamo affrontata e siamo partiti dall'uovo, però ecco, è stata un po' una fortuna anche, perché poi non è che avessimo in mente proprio quello. Però insomma, dalle sue conoscenze fisiche e chimiche, insomma, lei è riuscito in questa grossa invenzione. Sì, ma è una, ripeto, è il frutto di tanto lavoro e di tanta sperimentazione. Ma non è sperimentazione, perché poi la sperimentazione è anche quando cuoci un piatto di spaghetti. È vero. Certo. Perché a volte ci mette 7 minuti, a volte ce ne mette 8 e a volte ti scuoce e tu dici, porca miseria, ho sbagliato a mettere l'orologio. No, è la pasta che non è a posto. Per cui anche quella è sperimentazione, no? Perché noi tutti i giorni testiamo il cibo, lo verifichiamo sul campo, per cui è una trasformazione continua. Però quello che è importante e che secondo me poi si è spesso tralasciato in tutte queste polemiche, in tutte queste bailame che è venuto fuori, è che bisognerebbe insomma studiare un po' di più, essere un po' più curiosi, cercare di non vedere come delle cose assolutamente negative tutto quello che viene dalla scienza, perché comunque senza di quella non cresciamo e non andiamo avanti. Ce n'è bisogno per tutti, in tutti i campi, basta vedere nelle malattie, no? Se non ci fosse la ricerca e gli studi. Per cui tanto più che abbiamo questa possibilità di avere dei professori, comunque di avere una parte di queste persone che studiano, che ci aiutano a trovare delle applicazioni, bisogna sfruttarle. Poi, ecco, poi il tema magari è sfruttarle bene, piuttosto che magari sfruttarle a senso unico o in cose che magari non ci appartengono, però questo fa parte poi delle culture, no? Ricollegandoci sempre al tema dell'uovo marinato, vorrei, come dire, girarle una domanda, ma gliela gira in voce, anzi direttamente, la nostra ascoltatrice Rosanna da Lecco, che dovrebbe essere in linea con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno professore. Buongiorno, prego allora. E la mia domanda era questa, appunto pensando alle tradizioni della cucina e all'innovazione, che rapporto c'è tra l'uovo, diciamo, che avete, la cui cottura avete spiegato anche nel video, e l'uovo dei 100 anni dei cinesi, che ogni tanto ritorna anche sulle nostre tavole e anche questo è cotto in una, come direi, modalità crudo, quindi senza bisogno di una cottura sul fuoco. E professor Cassi, forse due parole dobbiamo dire su questo uovo marinato e anche sull'uovo marinato, su come funziona la denaturazione, che prima non l'abbiamo detta. Allora, facciamo prima un'osservazione di carattere molto generale. Tecnicamente preferiamo parlare di cottura ogni volta che si produce una modifica permanente nell'alimento utilizzando il calore. Queste modifiche, simili a quelle introdotte dalla cottura ma ottenute a freddo senza calore, le chiamiamo magari pseudocotture. Allora, che cosa succede normalmente durante la cottura di un uovo? Succedono tante cose, ma la sua consistenza cambia soprattutto a causa della coagulazione delle proteine che sono presenti soprattutto nell'albume, ma anche in larga misura nel tuorlo. Queste proteine, lo ripetiamo, sono delle molecole filamentose che stanno in una posizione raggomitolata ben precisa che si chiama lo stato nativo, e a seguito del riscaldamento si srotolano e poi si intrecciano fra di loro formando dei legami, formando una sorta di tessuto tridimensionale sodo che è quello dell'uovo cotto. Il punto è che la denaturazione, cioè lo srotolamento delle proteine e la successiva coagulazione si possono produrre anche senza calore, attraverso l'intervento di qualche sostanza o processo esterno. Allora, vediamo, il caso dell'uovo marinato è particolarmente interessante, perché qua si mettono sale e zucchero, che sono sostanze igroscopiche, che tendono ad assorbire molta acqua. Noi priviamo l'albume dell'uovo, il tuorlo dell'uovo nel caso specifico, di gran parte dell'acqua che contiene, le proteine non si trovano più in equilibrio con quell'acqua e iniziano a srotolarsi e a quel punto poi coagulano. Per spiegare agli ascoltatori, noi mettiamo un tuorlo, praticamente lo immergiamo in una bacinella con metà zucchero e metà sale, giusto? Aspettando un po' di ore succede che il tuorlo acquisisce una consistenza molto soda a seconda del tempo di permanenza, che ricorda per certi aspetti quella dell'uovo cotto. Chiaramente non sarà identica a quella dell'uovo cotto con il calore, perché quello non perde l'acqua, invece questo uovo perde acqua, però cambia decisamente la sua consistenza facendosi molto più solido. Un effetto simile a questo, ma diverso in realtà, si ottiene con l'alcol, che è il caso della cagliata d'uovo. Qua l'alcol di nuovo viene a turbare questo equilibrio delicato in cui si trova la proteina, e la proteina si srotola e di nuovo coagula. Un effetto ancora diverso è quello che si produce nell'uovo dei 100 anni. Qua si utilizzano sostanze con pH molto alto, fortemente basiche, che di nuovo vanno a turbare questo equilibrio dello stato nativo e permettono una coagulazione delle proteine. Va detto che nel caso dell'uovo dei 100 anni i processi sono molto più lenti rispetto a quelli delle preparazioni di cui abbiamo discusso prima. Va detto anche che queste sostanze basiche, tipo la calce, producono una serie di modifiche chimiche aggiuntive che cambiano sia il colore che gli aromi di questo uovo dei 100 anni. Infatti l'uovo dei 100 anni è molto scuro, tendente al verde, e emana un forte odore sulfureo normalmente. Ecco, sembra un uovo marcio, appunto, che sia lì da 100 anni. Per gli occidentali forse ricorda un pochettino l'uovo marcio, ma i cinesi ne vanno ghiotti. Ecco, quindi questa è un po' la differenza. Sì, fondamentalmente sono tutti processi che producono una coagulazione a freddo delle proteine, ma la producono in modo diverso e poi hanno anche altri effetti collaterali. Dunque, Cracco, lei è un esperto di queste tecniche, di pseudocotture, le abbiamo definite adesso così. Ecco, mi ricollego ad un'altra domanda che arriva da un altro dei nostri ascoltatori, che ci chiede, per esempio, invece, se si può cuocere un gambero col limone. Ci sono, le faccio questa domanda, gliela giro, ma le chiedo poi un po' in generale, appunto, se ci sono dei criteri, qualche indicazione generale che possiamo dare a chi vuole cimentarsi in queste procedure che sono alternative alla cottura, che aprono un orizzonte molto ampio. Sì, si può fare tutto in cucina, perché si fa tutto. L'importante è sempre saper cogliere le cose che si possono fare, che sono sostenibili, e cose no. Cuocere il limone, il gambero col limone, sì, si fa. Non c'è niente di male, oddio, secondo me se il gambero è buono è un po' buttare via il gambero, però poi magari uno riesce anche a trovare un equilibrio, no? È difficile dirlo così a parole, bisogna sempre cercare di usare il limone per, diciamo, no, come si usava in barca, no? Io mi ricordo un giorno ero in barca, tiremmo su dei ricci e questo mio amico ci mette il limone, gli ho detto perché mette il limone? E mi fa, perché così almeno sono sicuro che non mi succede niente, no? Nel caso ecco, non fosse disinfettante. Ovviamente falso, certo. Io ho detto, ma sei scemo, cioè, non ha senso, no? Cioè, ho detto, già l'acqua del mare è salata, per cui ho detto, al massimo lo sciocchiamo con l'acqua del mare, tanto è lì, non è che voglio dire che cosa serve a mettere il limone, non serve a nulla. Il limone uccide in quel caso, ma uccide tutto, ecco, non so come dire. Sì. Però se uno usa la buccia del limone, usa solo gli oli essenziali, sicuramente farà fatica a cuocerlo, ma comunque magari apporterà qualcosa, ecco, bisogna sempre conoscere bene le materie prime, bisogna conoscere le reazioni che queste hanno sulle materie. Il gambero è dolce, la sua bontà viene dalla dolcezza, non dall'acidità. Si fa anche largo uso di queste marinature per cuocere ad esempio la carne, queste cotture non cotture. Anche il pesce, credo, sì, no? Sì, insomma, si usa molto perché sono un po' alternative, no? Danno consistenze e sapori diversi da quelli che si conoscono, per cui sono interessanti, si possono trovare alcune applicazioni. Faccio un esempio banale, ma che può far capire il significato di alcune lavorazioni. Con l'uovo marinato, una volta fatto, che ci vogliono circa 7 ore più o meno, se noi lo lasciamo lì a temperatura ambiente senza più la sua marinatura, questo uovo tende ad asciugarsi. Dopo 15 giorni questo uovo è completamente asciutto, è proprio asciutto, sembra quasi una pallina di plastica. Un biscotto? No, la consistenza di un biscotto no, è perché è plasticoso, perché essendo grasso comunque ha ancora tutta la sua, è ancora diciamo un plasticoso morbido. Però se grattugiato diventa una bottarga. Noi abbiamo fatto spesso questo scherzo a qualche cliente. Sì, a qualche perché amico, il colore è lo stesso. Perché grattugiando l'uovo si perde quella che è la forma originale, il sapore dell'uovo diventa molto più forte, molto più concentrato e sembra una bottarga di muggine, non di qualità eccessa, ma di qualità medio-alta. E per cui no, bisogna sempre cercare di essere curiosi, di andare fino in fondo a quello che si fa, per vedere poi cosa succede, no? La pasta all'uovo che ne è derivata dal tuorlo è stato un sistema di compensazione, nel senso che tutti i giorni avanzavano 20 uova, perché ovviamente volendoci 7 ore di tempo per farne uno, non è che si possono fare al momento, bisogna prepararli prima. Per cui quelli che avanzavano avevamo il problema di come utilizzarli. Certo. E da lì è nata poi la pasta all'uovo, per cui bisogna sempre cercare di avere la pazienza e di avere la curiosità per andare avanti. Scorciatoie non ce ne sono, insomma, infatti. Bisogna proprio mettere le mani in pasta, è il caso di dirlo. Studiare. Va bene, chef, sappiamo che in questi giorni di festa e soprattutto a quest'ora lei deve assolvere i suoi doveri tra i tavoli del suo ristorante. Noi la salutiamo, le auguriamo un buon anno e grazie. Grazie anche a voi, buon anno. Buon anno, arrivederci. E invece noi continuiamo, perché a proposito di grattugiare un tuorlo d'uovo, pensavamo di parlare di grattugiare tutto tranne che il grana. Esatto. Allora, professor Cassi, proprio perché la cucina scientifica dà la possibilità di utilizzare ingredienti in nuove testure, nuove consistenze, eccetera, eccetera, la cucina scientifica dà anche la possibilità di grattugiare, ad esempio, un'ostrica o la mozzarella. È molto semplice in realtà, è un'osservazione che si basa sul fatto che a basse temperature molte sostanze acquisiscono una consistenza più solida. Se noi riusciamo a raffreddare tanto anche una pallina di mascarpone, questa diventa abbastanza solida da essere grattugiata. Allora, uno verrebbe normalmente in mente di mettere tutto in freezer e poi passare a grattugiare. C'è un grosso problema nel fare questo, che il raffreddamento in freezer è purtroppo lento e se queste sostanze che dobbiamo raffreddare contengono acqua, si formano dei cristalli che, occupando più volume rispetto all'acqua liquida, rompono la struttura dell'alimento in questione. Vi sarà capitato di scordare in freezer o in frigorifero un pezzo di carne o anche del formaggio, per esempio, e di ritrovarvelo completamente distrutto. E abbiamo bisogno semplicemente di un raffreddamento tanto rapido da non produrre grossi cristalli di ghiaccio che rompono questa struttura. E tutto questo si può ottenere molto facilmente attraverso l'utilizzo dell'azoto liquido, che, lo ripeto ancora una volta, è una sostanza naturalissima, si ottiene dalla liquefazione dell'aria, è molto ecologico e molto facile da utilizzare. Quindi faccio di tutto per promuoverne l'utilizzo domestico. Allora, molto semplicemente, se vogliamo grattugiare una mozzarella su una pizza o su un piatto di pasta asciutta, o anche per produrre una caprese con una consistenza nuova, la immergeremo per pochi secondi, diciamo 20-30 secondi, non di più, nell'azoto liquido. La estrarremo e poi la grattugeremo con una grattugia normalissima e questa si spargerà sul piatto in 1000 fiocchi morbidi che poi, una volta riscaldati, recupereranno la consistenza iniziale. Luciano Tona poi ha avuto la bellissima idea di grattugiare un'ostrica, ma questo ve lo può raccontare lui. Ecco, ma qui, professore, c'è una cosa importante che credo debba essere trasmessa a chi ci ascolta. Primo, quando avvengono queste trasformazioni, il gusto non è lo stesso e quindi qui c'è molto di nuovo, no? Quando io grattugio un uovo non è vero che poi ho semplicemente un uovo, del riso con su dell'uovo che è grattugiato, ma sento il gusto dell'uovo, si aprono nuovi gusti. E l'altra cosa che volevo chiederle è questa: insomma, noi siamo in un paese nel quale da Bolzano a Lampedusa si potrebbe andare avanti 10.000 anni mangiando ricette diverse, ma mi sembra che questa cucina scientifica amplifichi al cubo questa possibilità, no? Cioè si apre un universo impressionante di nuovi gusti. Certamente, apre molte possibilità in più ed accelera tantissimo il progresso nel mondo della cucina. Io notavo che Carlo Cracco ha fatto delle osservazioni molto interessanti, molto intelligenti a proposito. Aggiungerei che da sempre la cucina ha utilizzato la scienza del suo tempo, non è che i cuochi si tappassero gli occhi e le orecchie di fronte alle conoscenze scientifiche, anzi tutt'altro. Abbiamo testimonianze storiche del fatto che si tenevano ben informati i grandi cuochi. Diciamo che ultimamente la scienza è arrivata a capire molto meglio i processi di cucina, perché si tratta di processi estremamente complessi e quindi offre delle possibilità in più a chi vuole creare e inventare, e offre anche la capacità di capire. Poi va detto, ribadendo quello che ci raccontava lo chef Cracco, che ci sono alcuni punti fermi, prima di tutto che le nuove invenzioni devono avere un senso gastronomico. Sapete, è molto facile mettersi in cucina a fare un esperimento di tipo scientifico su un alimento e dire ho inventato qualcosa. Il problema è che questo qualcosa deve essere buono, anzi possibilmente migliore rispetto a quello che si cucinava con una tecnica tradizionale o comunque altrettanto interessante. Sì, non bisogna fare della chimica, bisogna fare della cucina. Beh, non bisogna giocare, se certo. Il piccolo chimico in cucina si può fare, però non è più cucina, è scienza divertente. L'importante è l'osservazione, perché come vi diceva Cracco, un cuoco ha molte possibilità di sperimentare ogni giorno e se è un bravo osservatore arriva a scoprire tantissime cose, forse più di uno scienziato che si limita a studiarle sui libri. La scienza nasce dall'osservazione. Se pensiamo di imparare tutto leggendolo sui libri, abbiamo sbagliato mestiere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Prima della pausa dicevamo che questa cucina scientifica può aprire un panorama immenso, beh, però questa cosa non è soltanto una prospettiva del futuro, insomma ci si sta organizzando e si sta parlando di una nuova formazione del cuoco. Sì, praticamente anche l'aspetto scientifico entra ormai nella didattica, nella formazione degli chef. E per parlare di questo ovviamente abbiamo chiamato il direttore didattico di ALMA, che è la Scuola Internazionale di Cucina Italiana diretta da Gualtiero Marchesi, che ha sede a Colorno, a Parma. È qui con noi lo chef Luciano Tona. Buon anno, Tona. Buon anno, ecco, anche a lei. Dobbiamo assolutamente dire che lei ha affiancato me, Maurizio e il professor Cassi all'interno delle nostre videoricette che potete trovare sul blog, che si chiama blog.moebiusonline.eu, in cui trovate le spiegazioni scientifiche del professor Cassi, le ricette un po' zoppicanti di me e di Maurizio e poi invece quelle di alta cucina del professor Tona. Allora, chef, in effetti la cucina scientifica adesso è entrata di diritto anche nella formazione dei giovani cuochi, di quelli che saranno i cuochi del futuro. Sicuramente. Diciamo che la scienza in cucina ha sempre avuto una grande importanza, a partire già da Escoffier. Oggi la portiamo continuamente tutti i giorni in aula, ma lo stesso Marchesi, quando aveva scritto il libro Oltre il fornello, portava la scienza ai cuochi del suo locale. Quindi questo aspetto scientifico attraverso le operatività continue della cucina sono sempre state viste con un occhio particolare. Oggi diamo un peso veramente importante, anche perché c'è un apporto sicuramente formativo molto più importante dei docenti, ma anche di figure professionali come Davide Cassi, che hanno dato spazio e forza a questo progetto. C'è una quota, ecco, come dire, di novità. C'è un'idea della cucina scientifica che punta appunto a realizzare piatti di alta cucina, però ecco, una cosa mi sembra evidente è che comunque in qualche modo vengono anche mutuate delle conoscenze che erano molto ben presenti, per esempio, nell'industria alimentare. Per cui questo lo dico anche perché, insomma, molti ingredienti che magari sono atipici o molte preparazioni che possono sembrare strane, in realtà sono ampiamente testate anche da un punto di vista, come dire, della salubrità. Sicuramente sì. Diciamo che è un'operatività che ha creato un grande cerchio, se vogliamo paragonarlo a questo. nel senso che la grande industria e la grande ricerca hanno sempre sfruttato le idee degli chef e degli chef più importanti e degli chef che fanno l'avanguardia. E in automatico gli chef che sono veramente i fautori del nuovo guardano l'industria per comprendere meglio come possono applicare sotto l'aspetto scientifico i loro processi produttivi. E questo è un grande valore secondo me, perché vuol dire veramente alimentazione tutto tondo. E sicuramente il fattore di passare da Alma e di stare a contatto con questi grandi cuochi che applicano continuamente nei loro processi produttivi queste nuove tecniche è un passaggio fondamentale, è la base del nuovo. L'avanguardia ha sempre comunque costruito quello che è l'attualità della cucina. Dunque Tona, senta, io vorrei introdurre una nostra ascoltatrice che ci ha scritto e vorremmo girare a lei o anche a Cassi la domanda. Nina, ci sente? Sì, sì, sono qua. Buongiorno Nina, buon anno. Buon anno. Dunque, qual è la sua domanda? La mia domanda è che, allora, premetto, sono rimasta folgorata dalla ricetta del raviolo Target, perché ho visto questa pasta quasi evanescente ma stendibilissima. E allora da celiaca mi sono chiesta, non è che la lecitina di soia per caso migliora anche la lavorabilità delle nostre farine, che tradizionalmente sono poco duttili, poco malleabili, friabili, si sbriciolano, eccetera? Le farine per celiaci in questo caso. Ecco, perché qui mi sembra che venga un collegamento abbastanza naturale. Abbiamo parlato, esiste addirittura un'industria che fa prodotti per i... Certo. Per i celiaci, ecco, in qualche modo queste competenze, alcune delle competenze possono di cucina scientifica forse possono essere trasferite anche alla famiglia e messe in pratica nella cucina di casa. Sì, il pane per celiaci è una roba che puoi tenere in mano per qualche secondo e poi diventa briciole. Esatto, ecco, cominciamo a rispondere alla domanda dell'ascoltatrice e poi magari sviluppiamo velocemente questo argomento. Cassi, a lei. Allora, cominciamo dalla lecitina di soia. La lecitina di soia rende tutto più plastico, più deformabile, più lavorabile, ma non dà elasticità. Quindi difficilmente aggiungiamo più tenuta, però possiamo migliorare di moltissimo la lavorabilità. Ad esempio, la lecitina aggiunta alla normale farina di grano duro permette di produrre delle sfoglie sottilissime, quasi trasparenti, o degli spaghetti che assomigliano a dei fili di cotone. Secondo, è molto interessante l'applicazione della cucina scientifica alle ricette per celiaci, ma senza ispirarsi all'industria. Ecco, questo volevo aggiungerlo. È chiaro che un cuoco può ispirarsi anche a tecniche già sviluppate nell'ambito dell'industria, ma è molto più interessante e stimolante inventare tecniche nuove per le cucine dei ristoranti o delle case. Qua il discorso sarebbe molto lungo, però vi posso preannunciare che ci sono una serie di preparazioni per celiaci, ma anche per non celiaci, perché sono molto buone, che si possono realizzare in casa senza ingredienti strani e con tecniche assolutamente normali. Vi cito solo un esempio, a mo' di anticipazione. Qualche anno fa, insieme allo chef Fulvio Pierangelini, abbiamo preparato dei ravioli di ceci ripieni di gamberi, utilizzando unicamente farina di ceci. Mm. La farina di ceci non è impastabile con acqua, come è invece la farina di grano, perché non contiene le due proteine, cioè gliadina e glutenina, che formano il glutine. Contiene comunque molte proteine che in presenza di acqua fredda non si legano fra di loro. Il trucco qua, o meglio l'invenzione, consiste nel mettere questa farina in forno a secco a una temperatura di circa 100 gradi per qualche ora. In questo modo produciamo la denaturazione di queste proteine e l'assenza d'acqua impedisce la gelatinizzazione degli amidi. Una volta lasciata raffreddare possiamo aggiungere l'acqua e la farina diventa impastabile. Chiaramente è un'impastabilità diversa rispetto a quella della farina di grano, ma con questo riusciamo comunque a realizzare delle ottime paste asciutte che hanno un sapore interessantissimo perché si tratta di ceci in purezza. Ecco, unica nota negativa, questo tipo di lavorazione per ora non è adatto alla panificazione, cioè non è adatto a produrre paste lievitate. Ma per quello che riguarda pasta asciutta o anche cracker o schiacciatine siamo perfettamente a posto. E la stessa cosa si può fare con altre farine, con la farina di castagne, con la farina di qualunque altro tipo di legumi. Se può essere un argomento interessante, penso che valga la pena di approfondirlo. Infatti l'argomento è davvero interessante e ci sarebbero tantissime cose da dire. Credo che anche gli ascoltatori in alcuni casi siano veramente interessati proprio per la salute. A questo proposito, infatti, rimanderei ad un'altra puntata speciale. Ecco, cosa dice Nina? Anche perché lei ha fatto un sacco di esperimenti, magari ce li potrebbe anche raccontare. E magari in una puntata speciale. Sì, perché adesso non ce la facciamo. C'è un lungo cahier di esperimenti. Da sottoporre. Devo dire che ieri sera ho proprio provato a mettere la farina di ceci in forno seguendo questo consiglio che avevo trovato sul vostro blog, ma non ho ancora avuto tempo di impastarla. Allora ci scriva il tourbillon delle feste. Ci scriva, mi raccomando, e ci faccia sapere com'è andata, che poi ne riparliamo in trasmissione. E tra l'altro volevo ricordare che noi, quando siamo andati ad Alma, la scuola internazionale di cucina, abbiamo incontrato lo chef Tona, che raccontava proprio agli studenti una lezione sulle farine, così, vero chef? Esattamente, diciamo che poi ad Alma il passaggio sulle farine è fondamentale anche per gli aspetti della pasticceria, perché ad Alma curiamo tantissimo anche quello che è l'aspetto della pasticceria, sia sui cuochi che sui pasticceri veri e propri. E gli elementi della pasticceria sono 4: uova, farina, zucchero. Quindi sono questi elementi che fanno la base della costruzione. E la farina sicuramente, nelle varie tipologie, nelle varie strutture, è da considerare e da valutare molto bene. C'è da dire che c'è una nuova grande apertura verso queste farine integrali, che si comportano in un modo prettamente diverso da quelle che sono le farine raffinate create appositamente per la pasticceria. Quindi questo ritorno anche a un gusto così, diciamo, tradizionale del prodotto, no? Farine molto più integrali, che si comportano sicuramente anche negli impasti in un modo decisamente diverso. E quindi creano meno glutine, si rompono più facilmente, e quindi gli studi sono fondamentali su questo aspetto. E gli chef devono essere preparati, insomma, su questo fronte. Sì, perché l'aspetto culturale, scientifico di preparazione ti permette di sviluppare quello che normalmente prima lo facevi solo per sperimentazione, no? Per prove. Oggi le prove le fai in laboratorio e poi quando vai a produrre, produci. E non rischi mai di sbagliare. È questo che ti permette la scienza. La scienza ti permette di avere quella conoscenza per poter fare sempre quello che vuoi e di avere un prodotto davanti e sapere già come devi interpretarlo, perché la conoscenza scientifica ti permette di estrarre da quel prodotto che tu hai e che trovi al mercato tutto quello che questo può dare. E questa qui è la forza, no? È un po' la forza della cucina italiana, la messa in visione delle qualità organolettiche di ciascun prodotto. Ma che bel messaggio. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Luca, un nostro ascoltatore della provincia di Como, ha avuto problemi con la sferificazione. Buongiorno Luca. Buongiorno. Stia un attimo lì, perché naturalmente dobbiamo introdurre questo tema. Dobbiamo introdurla, sì. Esatto. La introduciamo in questo modo, nel senso che è una delle nostre ricette scientifiche dolci e l'abbiamo usata un po' come spunto, come introduzione, per poi parlare dei dolcetti che potrebbero essere utili per l'Epifania, da mettere nella calza o da fare come sorpresa ai bambini il 6 di gennaio. Ecco, professor Cassi, allora spieghiamo rapidamente che cos'è questo caviale dolce, cos'è questa sferificazione, poi ascoltiamo la domanda della ascoltatore. E i suoi problemi, certo. Riassumiamo di che cosa si tratta. La sferificazione è una tecnica introdotta per la prima volta da Ferran Adrià e dall'equipe del Bulli nel 2003. Consiste nel produrre delle sfere cave all'interno che contengono un liquido e che sono ricoperte da una pellicola impermeabile che si rompe quando la mastichiamo. Quindi l'idea originale di Ferran Adrià era quella di avere un'esplosione di sapore in bocca prodotta dalla masticazione della fuoriuscita di questo liquido. Come si ottengono? Con una tecnica che è mutuata in qualche modo dall'industria farmaceutica. Si utilizza una sostanza che è l'alginato di sodio. Si può reperire facilmente in farmacia. Come dice il suo nome, è un derivato dalle alghe, da un certo tipo di alghe. Si mescola con la nostra base dolce, che nel caso specifico potrebbe essere uno sciroppo diluito con acqua, con questo alginato di sodio, mettendo una piccola percentuale di alginato. Poi parleremo anche delle dosi. si inserisce il tutto in una siringa o in un contagocce e si fa gocciolare in una bacinella che contiene una soluzione di cloruro di calcio in acqua. Al contatto con questa soluzione, le goccioline immediatamente formano questa pellicola impermeabile, che è dovuta alla polimerizzazione di queste catene di alginato di sodio. Cioè, che cosa succede? Quando queste catene, perché la molecola è fatta a catena di alginato, vengono a contatto con il calcio contenuto nella soluzione, il calcio si sostituisce al sodio e riesce ad unire due catene, in modo da intrecciarle e da produrre un tessuto impermeabile che avvolge tutta la goccia. Una volta che si è formata questa pellicola, l'acqua con il cloruro di calcio non può più penetrare e all'interno rimane il liquido che avevamo all'inizio e che esploderà in bocca quando lo masticheremo. Ecco, possiamo dire che si formano delle sfere perfette, quasi come se fosse un caviale. Adesso chiediamo anche al nostro ascoltatore Luca se davvero è riuscito. Luca, a lei abbiamo capito che invece sono venuti un po' dei fagioloidi. Sì, esatto. Io ho provato questa ricetta, l'ho provata con delle centrifughe di verdura, perché non amo i dolci, ho provato con una centrifuga di sedano, poi di barbabietola e di carota. Il gusto è ottimo, l'effetto dell'esplosione è perfetto, l'unica cosa che... utilizzando una siringa non sono venute delle sfere come nella vostra videoricetta, ma delle forme allungate, delle specie di fagioli. La consistenza di questo liquido è abbastanza colloso e forse per questo motivo è difficile poi anche con una forbice o con un coltello tagliarla per dare una forma sferica. Non vengono delle forme sferiche, vengono delle forme, diciamo, informi, ecco così. Quindi il gusto è perfetto, la presentazione molto meno, almeno per quello che è stato il mio risultato. Professore, come mai? Forse perché ha usato dei vegetali? No, i vegetali vanno benissimo, l'unica avvertenza è di non usare dei succhi troppo acidi, perché in questo caso questo tessuto non si forma, però magari ne riparliamo. Allora, questo inconveniente capita quando si mette troppo alginato. A questo punto la massa che si forma non è più liquida, ma come diceva lo stesso ascoltatore, piuttosto collosa e viscosa, e queste goccioline non fanno in tempo a prendere la forma sferica, che sarebbe quella perfetta, che dovrebbero assumere in acqua prima che si formi la pellicola. Quindi il suggerimento è di provare a sperimentare diminuendo sempre di più la dose di alginato. Non abbiamo dato volutamente queste dosi perché purtroppo cambiano da caso a caso, nel senso che a seconda del succo del centrifugato che utilizziamo bisogna variarle per ottenere dei buoni risultati. Però senz'altro io calerei la dose di alginato in modo tale da avere una sostanza sì un po' più viscosa rispetto al centrifugato iniziale, ma comunque non troppo collosa. No, un paio di domande che, come dire, ho anche un po' raccolto dal blog. Ecco, c'è un qualche trucco, insomma, per evitare di star lì a buttare giù una gocciolina alla volta, una specie di doccia? Possono fare delle sfere giganti, forse? Ahimè, allora, i cuochi del Buglia avevano inventato un sistema, avevano preparato una batteria di siringhe che veniva schiacciata in contemporanea da un'asticella su cui si premeva, però sono trucchi che ricordano un po' il laboratorio di Archimede Pitagorico. Sì. Insomma, un'altra idea potrebbe essere quella di fare gocciolare queste goccioline da una sorta di setaccio prodotto ad hoc, cioè una lamina con tanti buchi, che si mette sul fondo di un recipiente, potrebbe essere ad esempio di uno schiacciapatate. Ah, è vero. Però molto di più non si può fare. Vabbè, insomma, ci arrangiamo. Intanto vogliamo ringraziare l'ascoltatore Luca, lo salutiamo, o ha qualche altra domanda per il professore? A dire vero, una domanda io per Luca, perché molti ascoltatori si sono, come dire, lamentati del fatto che poi trovare l'alginato, trovare il cloruro di calcio non sia poi così facilissimo. Luca, lei dov'è che li ha trovati? Li ho trovati in farmacia, non sono disponibili immediatamente, ci vuole circa una settimana per riuscire ad averli, però si riescono ad avere in ogni caso. Insomma, bisogna girare un po' di farmacie e avere pazienza. Esatto. Oppure andare in una farmacia fornita. Va bene, grazie Luca e davvero buon anno. Grazie a voi, buon anno anche a voi. Ma quando uno va in farmacia e chiede l'alginato, com'è che lo guardano? Cioè, è possibile, professor Cassi? Non è che l'alginato non serve per nient'altro, magari di tremendo, no? Può utilizzare per tante applicazioni, lo utilizzano soprattutto per preparare le capsule di alcuni medicinali, ma il consiglio di rivolgersi al farmacista è perché il farmacista è il mediatore naturale di prodotti chimici di qualunque tipo, nel senso che il farmacista normalmente non è provvisto di alginato, ma se lo può procurare in tempi piuttosto brevi. L'ascoltatore giustamente parlava di una settimana. Sono prodotti che normalmente non vengono venduti al dettaglio. Sì, però e tanto vale andare lì e dire io devo fare della cucina scientifica, mi dia dell'alginato. Assolutamente, se poi il farmacista è un farmacista di fiducia, si può anche fare una chiacchierata e cambiare esperienze. Invitarla. Scusate se vi interrompo, io volevo tornare ai miei dolci da mettere nella calza della Befana. Professore, se volessi preparare delle frittelle senza grassi e volessi cuocerle nel glucosio, cosa mi dice? Dico che è un'ottima idea, anche qua dobbiamo procurarci il glucosio. Questo è un po' più facile da reperire. È un po' meno complicato, forse in alcuni supermercati ben forniti si trova. Allora, senz'altro in alcune regioni, soprattutto ai confini con l'Austria e la Svizzera, è molto facile da trovare. Vi ricordo che destrosio è anche un sinonimo di glucosio. Vi ricordo che bisogna procurarselo in polvere, perché con gli sciroppi che normalmente si vendono nei negozi di pasticceria questa tecnica non funziona. E vi ricordo che potete sempre comunque procurarvelo in farmacia. In questo caso chiedete il glucosio monoidrato, perché questo è il termine scientifico corretto con cui viene venduto. Altra avvertenza, che soprattutto per chi lavora nel campo della pasticceria, non usate assolutamente il cosiddetto sciroppo di glucosio disidratato, perché è un'altra cosa e non funziona. Da zucchero a zucchero passiamo al fruttosio satinato, io direi, professore, per costruire delle sculture metallizzate, satinate, delle rose, dei pupazzetti, da mettere proprio sotto l'albero, direi. O anche su una torta come decorazione, dove volete. Il sapore sarà quello di una caramella. I colori li scegliete voi e le forme sono lasciate alla creatività del pasticcere. Ecco, diciamo subito che il fruttosio è molto più semplice da procurarsi, perché normalmente lo trovate nei supermercati. È usato abbastanza comunemente come sostituto dello zucchero, in quanto ha un indice glicemico più basso e un potere dolcificante maggiore. Quindi voi vi procurerete questo fruttosio e tutta la tecnica consiste nel metterlo in una padellina e farlo sciogliere con semplice calore senza aggiungere acqua. A questo punto potete aggiungere il colorante che preferite. Io consiglio sempre di aggiungere anche un pizzico di acido citrico per equilibrare la stucchevolezza che darebbe questo dolce. E potete anche aggiungere qualche aroma. Lo fate bollire un pochettino, dico bollire perché vedrete delle piccole bolle che si formano ed escono. Si tratta dell'acqua che il fruttosio normalmente assorbe, essendo molto igroscopico. Dopo averlo fatto bollire per circa un minuto, lo verseremo su una lastra abbastanza fredda e piatta, potrebbe essere una lastra di marmo o di granito o un foglio di silicone o di silpat, e aspetteremo che si raffreddi un po' in modo da poterlo lavorare a mani nude. E cosa succede? Lavorandolo succede veramente, l'effetto è meraviglioso, dai nostri video sul blog si può vedere. Ecco, la lavorazione in questione è quella che si chiama appunto satinatura. In pasticceria viene già utilizzata con il comune zucchero da cucina, il saccarosio. Il problema è che il saccarosio non è lavorabile a mani nude, perché per mantenere questo stato fluido che lo rende lavorabile abbiamo bisogno di temperature che ci ustionerebbero le dita. Infatti i pasticceri utilizzano guanti in amianto e una lampada riscaldante sopra cui tenere la massa che viene lavorata per mantenerla abbastanza fluida. Beh, se si usa il fruttosio, diciamo che questa cosa non dovrebbe avvenire. No, con il fruttosio questo non succede, perché la temperatura a cui è fluido è poco viscoso, è comunque più bassa, e riusciamo a lavorarlo anche a mani nude. Allora, qui inizia questo processo di satinatura. In che cosa consiste? Prenderemo la massa di glucosio con le due mani e tireremo allontanando le due mani in modo da formare una struttura che ha la forma vaga di un filo. Quando abbiamo raggiunto una lunghezza sufficiente, diciamo un mezzo metro circa per intenderci, ripieghiamo in due su se stesso questo filo, uniamo questi due pezzi che si sono formati e ripetiamo la procedura, cioè di nuovo tiriamo. Si formano così una sorta di striatura che poi riflette la luce in questo modo e dà questo effetto satinato molto bello. Io ho una domanda velocissima per lei, perché abbiamo gli ascoltatori e i nostri bloghisti, diciamo, che si chiedono come fare ad aggiungere liquidi e poi insomma ad avere il fruttosio ancora lavorabile. Per esempio mi chiedono con il succo di limone, dicono che il risultato è ottimo al da posto mangiare. Dell'acido citrico. Sì, però in effetti se facciamo caramelle è anche una buona idea, uno potrebbe aggiungere vari succhi di frutta. E lì cosa si può fare? Semplicemente farlo bollire di più? Allora, la tecnica consisterebbe esclusivamente nel farlo bollire di più. Il problema è che il fruttosio già di per sé contiene molta acqua. perché l'assorbe dall'umidità atmosferica, per cui aggiungere un altro liquido che contiene acqua non è una grande idea per la lavorazione. È evidente che attraverso un'ebollizione più prolungata possiamo far evaporare tutta quanta l'acqua in eccesso. È anche evidente che il sapore dei succhi che aggiungiamo cambia in seguito all'ebollizione. Certo. Per esempio il succo di limone prenderà l'aroma caratteristico del limone bollito o cotto, quello della limonata calda, per intenderci. Quindi qua ci sono alcuni compromessi. Io già nello stesso blog ho suggerito questa soluzione intermedia: acidificare usando l'acido citrico in polvere, che è una sostanza naturalissima e anche di facile reperibilità. Per esempio si trova in molti supermercati perché viene utilizzata anche nella produzione di alcune conserve, marmellate, confetture. Poi per dare l'aroma sì, possiamo ricorrere a dei metodi naturali, per esempio strizzando delle scorze di limone direttamente sulla nostra massa fusa di fruttosio. A questo punto avremo l'acidità naturale data dall'acido citrico e l'aroma originario del limone che è dato dalla scorza. Quindi bisogna ingegnarsi un attimo, la procedura è leggermente più laboriosa, ma il risultato è veramente eccellente. Chiara, Maurizio, professor Cassi, io vi ho ascoltato come al solito stupefatto, questa cucina scientifica. Ne faremo 100 di queste ore qui. Trasformeremo Mebius in una trasmissione di cucina scientifica e non solo di scienza. Credo che anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici siano rimasti stupiti, tutti quelli che non hanno già sentito in Mebius. Vi ringrazio tutti e ancora buon anno. Buon anno. Buon anno. Tanti auguri a tutti.